notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E fu, siccome ignobile, dopo il feral sondaggio, mi avevano dato il 17%, falso è il sondaggio usato strumentalmente per la campagna elettorale, quindi Eifu, siccome ignobile, dopo il feral sondaggio, freme, si indigna, esplode in un fatal messaggio, dichiara affranto e triste, ormai, lo dico piano, la destra non esiste. Se non ci metto mano per continuare l'impegno e non essere affranto, devo cambiare contegno, oppure è solo pianto. Insomma, avete sentito, è tornato in piena forma un napoleonico manzoniano parodistico Berlusconi, ma naturalmente la notizia non riguarda soltanto Berlusconi, che è ritornato in scena in prima fila, se mai se ne fosse andato. Sono molte le notizie, questa volta vi avevo un po' sollecitato sulla pagina Facebook di Effetto Notte anche a suggerirle voi delle notizie. Franco dice magari parla di cose belle che fanno anche bene, insomma le notizie vi devo raccontare quelle che sono oggettivamente successe. Stefania dice l'attacco concentrico ai sindacati da parte del governo, ma il sindacato siamo tutti noi, quindi attaccano tutti noi. Poi parleremo anche di questo argomento. Domenico, sono impegnato, lavoro tutto il giorno, non ho avuto molto tempo e aspetta giustamente con piacere gli aggiornamenti di Effetto Notte. E poi fra i vari argomenti vedevo qualcuno che parlava, vediamo se lo ritrovo. Corrado dice il mio tema del giorno sono gli 80 euro che mi danno a maggio, che mi tolgono il giorno dopo con la Tari, già Tasi, già Tarso, per un totale di 98 euro. Qualcuno parlava dell'aumento della benzina, effettivamente un emendamento, vi do la notizia, al piano casa approvato ieri dalla Commissione Lavori Pubblici e Ambiente del Senato prevede l'aumento per l'ennesima volta delle accise sui carburanti dal 2015, però dall'anno prossimo, lo riferisce l'Unione Petrolifera, che si dice, stranamente l'Unione Petrolifera, stupita per la pervicacia con cui si continua a coprire ogni tipo di spesa aumentando le tasse sui carburanti. E poi c'è invece Stefania che dice no, non era Stefania, Elena, le ragazze rapite in Nigeria sono salite a 300, sono anche più di 300 forse, Elena, non frega niente a nessuno, ma io mi sento angosciata, perché non intervisti uno degli esponenti della politica europea di rilievo e chiedi cosa intende fare l'Europa? E questo è un argomento di cui senz'altro parlerò più tardi con un ospite. Ma adesso partiamo come sempre con il riassunto della giornata e vi dico, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti o anche i messaggi al 349-238-6666. Decreto lavoro, dunque, in primo piano passa la fiducia al Senato tra le proteste dei 5 Stelle. Poletti, ministro del lavoro dopo Renzi, conferma la musica è già cambiata. Le violenze degli ultra all'Olimpico, non c'è stata nessuna trattativa, dice Alfano. E De Santis si difende, non ho sparato io. Berlusconi contro la RAI, fa pubblicità alla mafia, commenta. Ucraina, Putin apre al dialogo, chiede ai separatisti di rinviare il referendum nell'est del paese, annuncia il ritiro delle truppe russe dal confine, ma il Pentagono smentisce. E poi la donna uccisa a Firenze è morta per un'emorragia interna. I carabinieri del RACIS individuano lo stesso DNA in 3 episodi di prostitute aggredite, violentate e seviziate, il primo nel 2011 a Prato. Tensioni e scontri tra lavoratori all'IKEA, 2 feriti a Piacenza. E partiamo quindi dalla movimentata seduta al Senato per votare la fiducia sul decreto lavoro. Fiducia che è passata, ora il decreto torna alla Camera, ma è stata dura la protesta in aula dei 5 Stelle. La democrazia e i diritti devono essere garantiti. Noi da qui, oggi, non ci muoviamo e ci dovrete portare via con la forza. Schiavi, mai. Grazie, senatrice Catalfo. Colleghi, gli spogliarelli nel Senato non sono consentiti e quando ci sono certi fisici sono anche sconsigliati. Quindi o vi rivestite... Il governo incassa la sua 8ª fiducia e sì al decreto lavoro, sono 158 i voti contrari, 122. L'intesa nella maggioranza tiene, dunque anche alla prova dell'Aula. Il provvedimento torna così alla Camera per essere convertito in legge entro il 19 maggio. Protesta del Movimento 5 Stelle nel corso delle dichiarazioni di voto. I senatori hanno indossato magliette con la scritta schiavi mai, occupando i banchi e mostrando delle catene, così il senatore Puglia. Questo decreto fa in modo esclusivamente di rendere il futuro molto molto molto precario. Contro la fiducia anche SEL, Forza Italia e Lega. Soddisfatta la maggioranza, in particolare il nuovo centrodestra che ha spinto più di altri per le modifiche apportate al Senato. Questo è un primo passo per rilanciare l'occupazione, spiega Sacconi. Il nuovo centrodestra ha certamente operato affinché le norme fossero più utili a fare lavoro, a fare occupazione, ad incoraggiare coloro che il lavoro lo fanno, cioè i datori di lavoro, gli imprenditori. Due le modifiche più importanti del Senato: la stabilizzazione automatica dei contratti a termine per chi sfora il tetto del 20% viene sostituita da una sanzione pecuniaria, la formazione pubblica dell'apprendistato potrà essere svolta anche dalle imprese e dalle loro associazioni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E anche la polemica tra governo e CGIL non si ferma. Potrei parlare a un'ascoltatrice, a rispondere oggi dopo la replica di Renzi, che c'è stata ieri, è il ministro del lavoro Poletti. Il governo ha scelto di decidere, da questo punto di vista è legittimo che si critichi, ma è altrettanto legittimo che questo governo si assuma in maniera esplicita, puntuale e diretta questa responsabilità. Noi l'abbiamo fatto, non abbiamo chiesto il permesso, virgolette, a nessuno, perché credo che sia un dato normale, naturale, fisiologico della democrazia. L'ascolto, la discussione, la decisione. Noi diciamo che la musica è già cambiata, perché pratichiamo le cose con una modalità che è diversa da quella che storicamente è nota in questo paese. Bene, quindi fino a qualche tempo fa diceva Renzi fatevene una ragione, adesso lo slogan diverso è la musica è cambiata. E anche proprio all'interno però della CGIL c'è un'area di rottura, sono infatti tre le liste in campo per l'elezione dei componenti del direttivo. La prima fa capo alla segretaria generale Susanna Camusso, la seconda al leader della FIOM Maurizio Landini, la terza alla radicale guidata da Giorgio Cremaschi. E dice Landini dal palco del congresso della CGIL a Rimini: vorrei un sindacato con le pareti di vetro. Siamo anche al dibattito sulle riforme. Dopo il compromesso di ieri sera in commissione si discute ancora di riforma del Senato. Matteo Renzi non ce la fa, la partita del Senato si giocherà dopo le europee e la faccenda si complica. La riforma di Palazzo Madama ottiene il primo sì dalla Commissione Affari Costituzionali, ma il governo deve inghiottire l'ordine del giorno, firma Roberto Calderoli, sul Senato elettivo, una posizione che il senatore della Lega ribadisce a Sky TG24. Una maggioranza in Commissione ha deciso che il Senato non sia un circolo ricreativo inutile, ma che abbia una propria funzione come in tutti gli stati federali, che le regioni hanno delle loro competenze e non vengano soppresse come di fatto fa il disegno di legge del governo, e che soprattutto infine i senatori possano essere scelti dalla gente e non dei nominati come invece voleva Renzi e la Boschi. Nel frattempo interviene anche Silvio Berlusconi dopo il sì di Forza Italia in commissione al testo del governo. Abbiamo subito una forte pressione, spiega il Cavaliere, abbiamo detto sì per non farci dire che volevamo interrompere la collaborazione. Interviene anche il Premier Matteo Renzi ad un cittadino che lo invita a non farsi infinocchiare dal Cavaliere sulle riforme, risponde ricevuto. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione è il 23 maggio, le prime votazioni dopo il 25. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è anche questa notizia: la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha detto sì alla richiesta di autorizzazione dell'arresto del deputato del PD Franco Antonio Genovese. Una maggioranza formata dal PD, Movimento 5 Stelle e SEL con 12 voti ha bocciato la relazione di Antonio Leone del nuovo centrodestra, che diceva no alla misura cautelare. E passiamo alla vicenda degli ultra. Per il Napoli sono state decise due gare a porte chiuse, per la Fiorentina la curva Fiesole chiusa un turno per i cori anti-Vesuvio. Sono queste le decisioni della giustizia sportiva. Sul fronte delle indagini invece oggi ci sono stati gli interrogatori degli arrestati e a parlare anche il ministro dell'Interno Alfano. Nessuna trattativa con gli ultra e nessuna lacuna nel sistema di sicurezza. È in un'informativa alla Camera, chiesta a gran voce dalle opposizioni, che il ministro dell'Interno Alfano ribadisce la posizione del governo in merito a quanto accaduto sabato scorso. Il titolare del Viminale dunque smentisce ancora una volta una trattativa tra tifoserie, società e Digos per far svolgere la finale di Coppa Italia. La partita si sarebbe comunque tenuta anche per scongiurare rischi da deflusso. La comunicazione del capitano del Napoli ha avuto il solo scopo di stemperare la tensione ed ha corrisposto ad una scelta di gestione dell'ordine pubblico che non può considerarsi una forma di cedimento alle frange più oltranziste del tifo. Ferma anche la difesa del corpo di polizia. L'impegno delle forze di polizia è stato rilevantissimo e va elogiato senza alcuna riserva. E poi la condanna di quei fischi all'inno d'Italia. Episodi che avviliscono i sani valori dello sport e sporcano gravemente l'immagine del calcio italiano. Quanto alle misure, dice Alfano, siano più severe ma non prese sull'onda dell'emotività, confermato che si procederà attraverso l'inasprimento delle sanzioni come il DASPO a vita e l'ampliamento dei reati per i quali è possibile applicarlo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dice di avere ricordi confusi anche a causa del pestaggio subito, ma nega di aver sparato Daniele De Santis. Gli inquirenti restano però convinti che sia stato lui a fare fuoco contro i tifosi del Napoli prima della finale di Coppa Italia. Accusato di tentato omicidio, oggi l'ex capo ultra della Roma è stato interrogato nel carcere di Regina Coeli dal GIP, che ha convalidato il suo arresto. Gli investigatori stanno ancora cercando di capire se De Santis abbia agito da solo, ma escludono che nella sparatoria sia stata usata una seconda pistola oltre a quella ritrovata. Il GIP oggi ha convalidato anche l'arresto dei tre tifosi napoletani feriti, anche quello del più grave, Ciro Esposito, che resta quindi piantonato al Policlinico Gemelli, una decisione duramente criticata dal padre del ragazzo, Giovanni Esposito. Escluso che è un spreco di denaro, con quale logica hanno messo un piantonamento vicino a uno in coma, cioè in coma è anche legato. Se le autorità vengono qua e mi spiegano, io dico torto, ma me lo devono spiegare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra le molte polemiche che hanno caratterizzato la giornata di oggi, se ne rispolvera anche una piuttosto vecchia mai superata, cioè quella della mafia in TV. Cambiano i boss, cambiano i loro affari, invecchiano gli attori, ma non certe polemiche come quella sulla mafia in TV. Succede così che Silvio Berlusconi, nelle vesti di autoproclamato primo imprenditore culturale, torni a rispolverare la vecchia questione dei tempi della piovra, la televisione pubblica che fa pubblicità all'Italia peggiore. Molte fiction che vendiamo sul mercato internazionale a rappresentare l'Italia, non si tratta, come fa la televisione pubblica, di far pubblicità alla mafia e all'Italia mafiosa. Noi questo non lo facciamo. In realtà ora l'unica fiction su questi temi è in onda su Sky, Gomorra, e l'ultima sull''Ndrangheta al nord e sarà trasmessa proprio da Mediaset. In casa Rai invece si sta ancora girando la serie tratta dal film di Piff, La mafia uccide solo d'estate. È dai tempi del commissario Cattaneo e della piovra che va avanti però la polemica sulla cattiva pubblicità che fanno all'Italia certe serie TV, e ora nel pieno della campagna elettorale fa presto a divampare di nuovo. Le fiction più criticate sulla mafia sono le sue, contrattacca Gelli dal PD, ricordando il capo dei capi. Tra provocazioni, gaffe e celebrazioni, il leader di Forza Italia lancia però pure una proposta vera: detassare le imprese che si occupano di cultura, un ambito che, come la magistratura e l'affondo finale di Berlusconi, è stato conquistato da sinistra. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Ma ci sono dei messaggi critici. Marina da Milano dice: ricoverato, riferito a Berlusconi, così anche Gianni. Ma adesso parliamo invece delle proteste finite in rissa all'IKEA di Piacenza. Sono stati due feriti alla fine, ricoverati ma non gravi, degli scontri avvenuti all'alba davanti ai cancelli del deposito centrale di IKEA a Piacenza. Circa 150 persone, lavoratori aderenti al Sicobas e altri manifestanti, hanno cercato di imporre il blocco degli ingressi all'inizio del primo turno, rendendo necessario l'intervento della polizia. Per motivi di sicurezza IKEA ha deciso di sospendere l'attività del deposito. La protesta dopo che nei giorni scorsi 33 lavoratori, quasi tutti immigrati, della cooperativa San Martino, che fornisce servizi all'interno del deposito IKEA, erano stati sospesi dal servizio accusati di inadempienze lavorative. Ci colpiscono perché siamo iscritti al Sicobas, non per ragioni reali, l'accusa dei facchini sospesi, tutti iscritti al sindacato, che ora promette di proseguire la lotta davanti alla sede dell'immenso magazzino piacentino di IKEA che serve Italia, Svizzera e Mediterraneo orientale. Ad ora nessun manifestante è stato portato in questura, ma la polizia sta verificando come procedere in termini di denunce. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dall'IKEA alla Fiat è avuto uno scivolone in borsa, meno 11,69%, scivolone che manda in fumo 1,24 miliardi di euro naturalmente in capitalizzazione. Giornata decisamente nera, proprio il giorno dopo la presentazione del piano industriale. Un piano coraggioso e di rottura, scrivono il presidente John Elkann e l'amministratore delegato Sergio Marchionne in una lettera ai 300.000 dipendenti del gruppo, e Marchionne dice l'occupazione è garantita. Spostiamoci all'estero. Sudafrica, dovrebbe esserci in questi minuti la chiusura dei seggi per le prime elezioni legislative dopo la morte di Nelson Mandela. Ne usciranno vincitori 400 deputati che nomineranno a loro volta il 21 maggio il prossimo presidente, favorito nonostante gli scandali e le accuse di inefficienza Jacob Zuma. Con la cronaca torniamo in Italia. Le indagini sulla donna legata e seviziata lasciata morire da un maniaco a Firenze. I carabinieri hanno individuato lo stesso DNA nelle prove in mano agli inquirenti per tre episodi analoghi di cui uno a Firenze e uno a Prato. Un maniaco seriale aggredito e violentato delle prostitute. Ufficiale, insomma, l'aggressore ha già colpito seppur senza uccidere. Gli episodi vanno dal 2011 al 2013. E adesso chiudiamo parlando di libri. Domani parte il Salone Internazionale del Libro a Torino con gli italiani che però non è una novità, leggono sempre meno. Il tema scelto vuole essere ottimista. Quest'anno al Salone del Libro si parla di bene. Dal tradizionale confronto bene-male, che da sempre anima gran parte della letteratura, al bene inteso come far bene le cose, farle con cura. Scrittori italiani e stranieri, intellettuali, scienziati, affronteranno il bene da punti di vista diversi. Sembra dunque un inno all'ottimismo, in un momento in cui l'editoria è in crisi profonda. Gli ultimi dati Nielsen, commissionati dall'Associazione Editori, ci dicono che nel 2013 il mercato ha perso, per quanto riguarda gli incassi, il 6,2% rispetto all'anno precedente. Le copie vendute diminuiscono solo del 2%, vuol dire che si vendono soprattutto libri low cost. I lettori in Italia, ossia coloro che leggono almeno un libro all'anno, sono sempre meno, il 43%. Al Salone del Libro si cercherà di ritrovare un po' di ottimismo, oltre che di passione per la lettura, a iniziare dai più piccoli, ai quali come sempre è dedicato il Bookstock Village, incontri e laboratori per gli under 18. E poi tanti scrittori, dall'americano Joe Lansdell, maestro del crime, alla spagnola più amata in Italia Clara Sanchez, da Francesco Piccolo, favorito allo Strega, a Michele Serra, dal popolarissimo Andrea Vitali a Paolo Giordano, fresco di nuova uscita. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Direi che è il momento di fermarci, il riassunto della giornata è fatto, poi affronterò come sempre con gli ospiti alcuni degli argomenti di oggi, tra cui uno appunto anche citato da un'ascoltatrice, anzi più di uno, però adesso aggiorniamo chi sta viaggiando, è questione di pochi minuti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Pochi istanti, rieccomi ancora qui, le notizie ve le ricordo e poi passeremo alla fiducia che c'è stata, questa è la prima notizia, sul decreto lavoro oggi tra le proteste del Movimento 5 Stelle, i grillini sono incatenati e avevano sulle magliette scritto schiavi mai. Questa è la prima delle notizie, ma poi le violenze degli ultra all'Olimpico, non c'è stata nessuna trattativa, ha detto Alfano, e De Santis si difende, dice non ho sparato io. Berlusconi contro la Rai, lo abbiamo sentito, dice fa pubblicità alla mafia. Ucraina, Putin apre al dialogo, chiede ai separatisti di rinviare il referendum nell'est del paese, annuncia il ritiro delle truppe russe al confine, anche se il Pentagono smentisce. Per quanto riguarda la donna uccisa a Firenze, morta per un'emorragia interna, i carabinieri del RACIS individuano lo stesso DNA dell'uomo, del maniaco, in tre episodi di prostitute aggredite, violentate e seviziate, il primo nel 2011 a Prato. E poi tensioni e scontri tra i lavoratori all'IKEA, due feriti a Piacenza. Quindi parliamo della fiducia ottenuta dal decreto lavoro oggi al Senato. Ne parliamo con Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alessandro. Buonasera a voi tutti. Senti, tra gli argomenti che chiedevo agli ascoltatori di sottoporre oggi, Joseph in particolare dice il Jobs Act approvato al Senato, una vera vergogna. Cerchiamo di capire, Alessandro, tra l'altro, in che cosa consiste quello che è stato approvato oggi, che poi certo deve passare alla Camera, credo per l'ultimo passaggio. Ma, almeno nel meglio. Per riassumere, sì, sostanzialmente questo, la manovra del governo in campo del lavoro si muove in due direzioni, una era questa del decreto e l'altra è il disegno di delega che poi è il riordino più complessivo vero e proprio del lavoro, quindi diciamo questa è una delle direzioni in cui si sta muovendo. Che cosa fa, diciamo così, dove va a incidere realmente? Possiamo dire che la parte più rilevante è quella che riguarda il precariato di fatto. Sì. Per quale motivo? Perché non, intanto questa parte di questo termine precariato viene sostanzialmente superato, perché diciamo così si passa da un regime in cui sostanzialmente ci sentiva un po' ai margini del mondo del lavoro, uno in cui cui ci sono sicuramente maggiori certezze. È sicuro per il lavoratore questo? E per l'azienda. È sicuro, Alessandro? La conversione, ad esempio, perché è una cosa importante, nessuna azienda può avere più del 20% dei contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Quindi questo è un aspetto importante. Anche se Alessandro, sai, è passato giorni fa l'emendamento secondo il quale in realtà chi supera questa soglia non è più obbligato, come in una prima bozza, a fare le assunzioni a tempo indeterminato, ma paga una multa, quindi è stato un po' edulcorato. Bisogna vedere che parte la guardiamo, in questo senso, se la guardiamo dal punto di vista, in questo senso, del lavoratore, certamente c'è un passo indietro rispetto all'obbligo dell'assunzione, ma rispetto a quello che in questo momento stanno chiedendo le aziende italiane rispetto alla situazione di crisi e di critica ancora in cui si trovano, era sostanzialmente di tramutare questo in una sanzione amministrativa che poi di fatto è il 20% dello stipendio del 21esimo contratto a tempo determinato per tutta la sua durata. Hanno trovato questa forma per far sì che si evitasse una strozzatura per cui con la riassunzione automatica saltavano nuovamente le imprese e rischiavano c'era il rischio che avrebbero potuto sospendere alcune dei contratti a tempo determinato. Quindi da una parte ovviamente c'è stato un compromesso tra quello che erano le esigenze delle imprese e quello che invece era un po' quello che veniva dal mondo del lavoro. Ma possiamo dire questo, certamente come tante cose purtroppo che si stanno facendo in Italia, che con grande ritardo, bisogna fare un passo alla volta. Questo sembra un passo, possiamo dire, nella giusta direzione. Certamente quando si rimette ordine in una situazione come quella del lavoro italiano, che era veramente una sorta di giungla, è un primo passo, prendiamolo per quello che è, vediamo poi quando ci sarà la legge delega, che ripeto, quello è il vero riordino del mondo del lavoro, non il Jobs Act, lì sarà diverso. Anche questo, fra l'altro, parte la prossima settimana l'esame della legge delega, quindi la prossima settimana ci saranno sia il Jobs Act, che torna alla Camera, che la legge delega. Senti, e la legge delega, hai detto, è più riguarda una riorganizzazione generale della materia, in che senso? Sì, la legge delega è il piano più complessivo, più largo, con cui poi si andrà a incidere non soltanto più sul precariato, ma su tutti gli altri aspetti dell'organizzazione del lavoro. È la vera riforma del lavoro, quella del disegno di legge delega. Senti, invece, a proposito di quello che scrivono gli ascoltatori, per esempio sugli 80 euro, diceva Corrado, è il mio tema del giorno, perché me li daranno a maggio, poi me li tolgono il giorno dopo con la Tari, già Tasi, già Tarsu, per un totale di 98 euro, 40% di quello che si fregheranno. Tu che riflessioni hai fatto su questa storia degli 80 euro, che lo sai, no? Ma sì, entrano in una categoria ovviamente disagiata. In questo senso ci sono delle perplessità, noi ne abbiamo fatte rilevare anche alcune, oltre a quelle che hai detto tu. Ad esempio, ci sono delle famiglie, se ci si trova in una famiglia monoreddito, l'aiuto è la metà, perché in una famiglia con due redditi non si conta la somma dei redditi, ma i due stipendi, quindi si prende il doppio del bonus in questo senso. E allora già questo, in famiglie che magari una delle parti ha perso il lavoro, certamente qualche malumore l'ha creato, è ovvio, questo è un aspetto interessante. Però, in generale, questi 80 euro nessuno ancora è in grado di dire veramente quale sarà l'impatto. L'abbiamo visto anche con i dati della Commissione Europea di alcuni giorni fa, quando sono state riviste a ribasso le stime del PIL italiano, tutti dicono ma allora gli 80 euro non fanno nulla. Sì. In realtà la stessa Commissione ha detto è troppo presto per valutare, uno, quale sarà realmente l'impatto sui redditi e sui consumi, due, quale sarà l'impatto in termini di spesa pubblica, di copertura, perché ancora i dettagli veramente non ci sono. Quindi, però che dire, questo è un paese che ha bisogno, penso che questo sia il tema centrale, qui è impossibile riuscire a sanare la situazione d'amblè, di colpo. Quello che si può fare è dare dei piccoli segnali di fiducia alla gente. Io credo che gli italiani hanno bisogno di segnali che diano un po' un senso di fiducia sul futuro. Quegli 80 euro per molte categorie saranno importanti, anche se, come ho visto l'altra sera, posso fare un po' di battuta, ma qui allo stadio a San Siro, ad esempio, hanno riempito di multe tutte le macchine che erano là intorno, quella è una multa da 60 euro, gente che lì dentro c'è parecchia gente che prende gli 80 euro già vanificati dalla multa. Quindi in questo senso poi se andiamo a guardare quale sarà l'impatto, lo vedremo da tante cose. Senti, io invece dico una cosa un po' più cupa, anche se questa dovrebbe essere una battuta, un funerale che c'è stato qualche giorno fa per una ragazza, i vigili si sono messi a fare multe a tutto spiano alle persone, quindi figuriamoci veloci anche in quell'occasione, tra l'altro ancora più grave, almeno a San Siro erano andati a divertirsi, questo per sì, dire. Allo stadio poi vadano diciamo così, cioè di canoria, molta della gente che va allo stadio è quella poi che rientra nei famosi 80 euro, cioè di quelli che arrivano fino a 1500 euro al massimo. Quella delle multe comunque, quella è un'altra materia molto complessa, come sapete noi abbiamo scritto proprio sul giornale di ieri che siccome si sta rivedendo ad esempio tutta la riformulazione degli autovelox, c'è la possibilità che tutte le multe che sono state combinate finora vengano annullate. Quindi vediamo quella, ma in realtà le multe, come ben sapete, sono il modo con cui i comuni stanno facendo i bilanci in questo momento di calo dei trasferimenti pubblici. Pensa come siamo messi. Sentiamo un attimo giusto un passaggio delle cose che ha detto Berlusconi nelle ultime ore. Il ritorno alle larghe imprese intese non lo prevediamo assolutamente, anche perché abbiamo fatto un'esperienza con il Partito Democratico che ha mancato a tutti gli impegni. Non è un ritorno alle larghe imprese, quindi questo l'ha specificato anche alle larghe intese, anche se ieri aveva detto ma sì, c'è apertura alla maggioranza, potremmo rientrarci, poi dopo un po' invece ha corretto dicendo solo se ci fosse una catastrofe. Insomma, questo per dire il percorso delle riforme, visto che abbiamo appena parlato di quella del lavoro, poi vabbè, si vedrà, ma giusto, certo, così. Infatti questo è un po' la realtà dell'Italia. Io guardavo dei sondaggi ad esempio molto interessanti che hanno fatto a Londra in un meeting che c'è stato proprio sulle riforme e sull'Italia, era un meeting di investitori internazionali, hanno fatto un sondaggio, erano 400 investitori, era interessante vedere come l'80% della gente ha detto credo in Renzi che andrà avanti con le riforme, poi è venuto fuori che il 70% della sala diceva ma non credo che in Italia faranno le riforme. Sostanzialmente diciamo questi due dati contrastanti, è ancora così qui finché non c'è un poi un modo, diciamo così, qui in questo senso serviva anche le riforme istituzionali, dovevano cercare di dare una maggiore stabilità ai governi italiani e la possibilità di concretizzare poi queste riforme. Certamente pensando che c'è di mezzo anche le elezioni europee, certo questo percorso non sarà facile perché purtroppo il percorso delle riforme va a incrociarsi col percorso alle elezioni, quindi temi elettorali si mischiano con quelli che sono problemi invece più strutturali del paese, questo è un rischio per tutti quanti. Purtroppo in Italia le campagne elettorali diventano le campagne, persino quelle europee, che si dovrebbe parlare di Europa, se ne parla talmente poco e leggi che diventa più un far cadere il governo, il nostro governo. Ecco, questo purtroppo è un po' una costante. Ai noi. Alessandro Pratterotti, ti lascio lavorare visto che devi chiudere il giornale, deve essere pronto domani. Ciao Alessandro, ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi qui, Roberta Giordano, sempre con voi. Tra poco affronteremo l'argomento che anche citava Elena, dicendo che non interessa a nessuno, le ragazze rapite in Nigeria, invece sta molto a cuore a me, immagino, spero che stia a cuore a molti. Però prima vi sintetizzo, se avete acceso la radio in questo momento e anche semplicemente se ve li siete scordati e avete voglia di sentirle ripetere, quali sono state le notizie principali di oggi. Il decreto lavoro è passata, la fiducia che è stata posta al Senato, 158 i sì, anche se c'è stata una grande protesta del Movimento 5 Stelle, i senatori si sono incatenati, sono messi in manette con le t-shirt con scritto schiavi mai, protesta anche di Sel, ma Poletti dice la musica è già cambiata. Per quanto riguarda le riforme sono sempre in salita, Renzi però dice non mi faccio infinocchiare, c'è un ok comunque al testo base, le violenze degli ultra all'Olimpico non c'è stata nessuna trattativa. Assicura Alfano e De Santis si difende, non ho sparato io ma il GIP conferma gli arresti. La donna uccisa a Firenze, i carabinieri individuano lo stesso DNA in tre episodi di prostitute aggredite, DNA di questo eventuale ipotetico maniaco, ma è ormai mi pare piuttosto acclarato, altre prostitute aggredite, violentate e seviziate, il primo nel 2011 a Prato, il primo episodio. Per quanto riguarda la Fiat c'è stato uno scivolone oggi in borsa, il titolo è crollato dell'11%, poi c'è stata la lettera di Marchionne e del CAN che hanno parlato nella presentazione del piano industriale di ieri di un progetto di rottura e assicurano che l'occupazione è garantita. E poi c'è una notizia che in realtà è uscita proprio nelle ultime ore, più vicina alla vita artificiale, un batterio col DNA potenziato, codice con due lettere in più rispetto al normale, il primo organismo semisintetico. Poi capiremo più in là, insomma è stato pubblicato sulla rivista Nature, a cosa servirà in particolare. Adesso invece vi dicevo, volevo sicuramente affrontare questo argomento che ci sembra così lontano, in realtà così vicino, fa parte di una cultura portata all'estremo del suo abominio, del suo modo di considerare le donne. Sapete che in Nigeria il gruppo integralista islamico nigeriano Boko Haram ha rivendicato 2 giorni fa il rapimento dello scorso 14 aprile di circa 230 studentesse in Nigeria. Il loro capo Abubakar Sheakau, in un video di 57 minuti, è apparso in mimetica davanti a un blindato con altri uomini mitragliatrici, uomini col volto coperto, dicendo: le studentesse ora le abbiamo prese noi, le venderemo come schiave a $12, schiave sessuali, perché non devono, per punirle del fatto di aver voluto studiare. Infatti Boko Haram, il nome di questo gruppo integralista, sta proprio a significare: l'educazione occidentale deve cessare, è vietata, è un po' questa la traduzione, peccato. Devono lasciare la scuola ed essere date in sposo oppure schiave, le adolescenti, tutte pensate tra i 12 e i 17 anni, e questa notte ne sono state rapite altre 11, addirittura queste prime, circa 230, erano state rapite in una scuola, mentre queste ultime 11 sono state proprio prese in un villaggio, casa per casa, pensate. E la comunità internazionale si è per fortuna fatta sentire, almeno sentire. Il presidente Barack Obama degli Stati Uniti ha detto: una situazione oltraggiosa che spezza il cuore, faremo tutto il possibile per liberarle. E per il momento sembra che il Dipartimento di Stato americano e quello in inglese britannico abbiano messo a disposizione le rispettive intelligence, quindi servizi segreti, per rintracciare il luogo dove sono tenute in ostaggio queste ragazze, anche se sembrerebbe che i rapitori le abbiano già portate fuori dai confini della Nigeria. Ma vorrei capire di che paese stiamo parlando e dove sta andando, soprattutto con Enzo Pace, che saluto. Buonasera professore. Buonasera a voi. Esperto di Nigeria, professore ordinario di sociologia della religione all'Università di Padova, insegna anche Islam and Human Rights all'European Master on Human Rights and Democratization, è stato segretario generale e presidente della International Society of Sociology e of Religion. Insomma, tra i temi di ricerca i fondamentalismi, la sociologia dell'Islam, ma concentriamoci soprattutto sulla Nigeria, paese africano che sta prendendo da tempo una strada particolare, diciamo così, professore. Sì, è un paese, diciamo, sull'orlo di una grave crisi di nervi, perché è un paese, per dirla con due battute, potenzialmente ricco, che sta crescendo anche dal punto di vista dei parametri della crescita economica, ma è un paese in cui sono ancora troppe persone che vivono con $2 al giorno, e in cui nella grande città di Lagos la luce va via almeno 8 volte al giorno, quindi bloccando condizionatori, collegamenti internet, eccetera. Quindi è un paese diviso sostanzialmente in 2 grandi parti. Bisogna sempre ricordare che è un paese fatto di 36 stati con 250 gruppi, diciamo, etnici. Un nigeriano del nord non capisce se parla nella sua lingua un nigeriano del sud, per cui c'è questa lingua nazionale che è l'inglese, è un pidgin English un po' bastardo, ed è un paese appunto che da anni si dibatte in una crisi fortissima, perché una parte degli stati del nord a maggioranza musulmana sono colpiti da movimenti puritani radicali che sognano di imporre la legge coranica in alcuni di questi stati, ed è qui che nasce questo movimento Boko Haram nel 2002 nello stato del nord, la capitale Maiduguri, dove appunto c'è il sogno di imporre la legge coranica, è diventata poi una pratica di lotta politica e poi una pratica di lotta armata, e degenerata fino a questo ultimo episodio atroce di cui avete parlato. Immaginate appunto il destino di queste povere ragazze la cui colpa era appunto soltanto quella di aver desiderato insieme alle loro famiglie di studiare. Infatti abbiamo visto, anche se avete visto servizi televisivi in questi giorni, le madri disperate che disperano anche di ritrovarle, nonostante il presidente nigeriano assicuri da giorni, vedrete, le ritroveremo. Naturalmente in questi casi, soprattutto appunto paesi in cui forti sono gli integralismi, poi sono le donne come sempre a rimetterci più di tutti, ma professor Pace, mi sembra che in realtà gli Stati Uniti, che concretamente forse sono i primi o gli unici insieme alla Gran Bretagna a mandare mezzi e persone per occuparsi di questa faccenda, in realtà abbiano da tempo delle loro forze in Nigeria, sempre nell'ambito della lotta contro contro il terrorismo integralista, sì, no? Dall'11 settembre sì. In poi, sì, se non sbaglio. Ci sono, come dire, dal 2009, quando questo movimento ha cambiato strategia, passando da un movimento tipicamente tradizionalista, religioso, alla lotta armata. Gli obiettivi e i bersagli sono cambiati, prima colpivano la polizia o l'esercito, poi hanno cominciato a colpire le chiese cristiane. Mm-hmm. Questo è l'aspetto che più ha sconvolto l'opinione pubblica americana, perché le chiese cristiane che vengono colpite sono queste nuove chiese evangeliche che stanno sorgendo dappertutto in Nigeria, in particolare negli stati musulmani, la maggioranza musulmana. Questo irrita una parte di questi movimenti radicali, che vede queste chiese evangeliche come una ulteriore invasione dell'Occidente cristiano, e quindi, come dire, cercano di alzare il tiro facendo vedere che c'è una specie di lotta di religione. In realtà è tutto molto strumentalizzato, e quindi in questo momento, quando questo movimento comincia a colpire, si contano quasi più di 400 attentati in questi, dal 2009 a oggi, queste chiese evangeliche, evidentemente gli Stati Uniti hanno cercato, e anche le chiese anglicane che hanno varie come dire, filiali in Nigeria, hanno cercato di aiutare il governo a scovare gli autori, a metterli in condizione di non nuocere. Professor Pace, scusi, lei diceva che è un paese federale con tanti stati, 36 se non sbaglio, ha detto, con tante lingue diverse, sì. Quindi cosa significa? Che è una cozzaglia che è difficile tenerla sotto controllo, e soprattutto nelle zone più povere può attecchire più facilmente l'integralismo islamico? Sì, esatto. Pensi un attimo alla capitale dello Stato, la capitale dello Stato del Nord, che è Kano, 5 milioni di abitanti, e una volta era una città di industria tessile, oggi è in condizioni miserevoli, e quindi si capisce che laddove arrivano questi movimenti puritani, imputano ai governi, in questo caso il governo è capitanato per caso, insomma, da uno che si dice cristiano, non è musulmano, imputano appunto ai governi non musulmani la povertà, l'ingiustizia, lo sfruttamento, e quindi c'è anche la strumentalizzazione di una condizione che oggettivamente è penosa, e soprattutto i paesi della Nigeria del Nord, negli stati del Nord, meno in quelli del Sud. Professore, per chiudere, c'è possibilità da una parte che con le forze inviate da Stati Uniti e Gran Bretagna le ragazze vengano ritrovate, e poi che futuro ha, proprio in breve, se riesce, questo paese? Cioè, che cosa si può fare? Questo paese ha un futuro molto a rischio di spaccatura, ma ovviamente se la comunità internazionale aiuta il governo di Abuja a trovare anche le modalità di intelligence per capire chi finanzia questo movimento, chi sono i leader, tra l'altro quante frazioni si sono formate all'interno di, sotto questa etichetta, capire qual è quella più, come dire, più raziocinante, quella più radicale, focalizzata, legate ai movimenti del Mali, del Chad e così via. Sono tutte cose che si fanno con l'operazione di intelligence ad alto livello. Va bene, professore. Va Enzo bene. Pace, la ringrazio e buona continuazione, buon lavoro. Sì, grazie. E ringrazio anche le ascoltatrici, il dottore Beatrice, in particolare anche Flavio, che dice un argomento che sta a cuore anche a me. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Buone notizie, vi ricordo, in pochi secondi con il via libera della fiducia al Senato sul decreto lavoro, con le proteste del Movimento 5 Stelle e di SEL, è passato con 158 sì. Poi le violenze degli ultra all'Olimpico, il ministro Alfano assicura che non c'è stata nessuna trattativa con gli ultra e intanto l'ultra De Santis si difende, non ho sparato io, anche se il GIP conferma gli arresti. Per quanto riguarda la donna uccisa a Firenze, i carabinieri del RACIS hanno individuato lo stesso DNA del maniaco in 3 episodi di prostitute aggredite, violentate e seviziate nei scorsi anni. Il primo è successo nel 2011 a Prato. E poi questa notizia che è arrivata a fine giornata, più vicina alla vita artificiale, un batterio con un DNA potenziato con un codice con 2 lettere in più, il primo organismo semisintetico che è stato creato. Adesso invece voglio passare a questo nuovo allarme smog da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'OMS, un'agenzia di oggi. Circa la metà della popolazione che risiede, dice questo allarme, nelle città monitorate è esposta a una dose di inquinamento atmosferico 2 volte e mezzo superiore ai livelli raccomandati. Solo il 12% delle persone invece vive in città dove la qualità dell'aria è conforme con i livelli previsti dalle linee guida sulla qualità dell'aria urbana. Causa, pensate, 3,7 milioni di morti all'anno per ictus, tumori, malattie respiratorie, eccetera. Insomma, si parla tanto di allarmismo, sono questioni che ritornano ciclicamente, no? Ogni tot questi allarmi, alla fine quasi sono come li riteniamo un brusio di sottofondo, ma non so se possiamo continuare a sottovalutarli. Chiedo a Gian Piero Maracchi, climatologo, fondatore, poi per molti anni direttore delle Libimet CNR, l'Istituto di Biometeorologia. Professore Maracchi, buonasera. Sì, è una situazione che noi abbiamo messo in evidenza, infatti con noi climatologi, ma anche chi si occupa in modo specifico chimici dell'atmosfera ormai da tantissimi anni. Naturalmente è una situazione che è legata al modello economico che abbiamo adottato negli ultimi 50 anni, 60 anni, alla densità della circolazione, spesso anche a fattori meteorologici, quando per esempio c'è un'inversione termica nelle città, cioè non c'è diffusione di atmosfera verso l'alto, le concentrazioni aumentano molto e quindi la popolazione è fortemente esposta. Non è soltanto questo l'allarme, perché c'è tutta la parte che riguarda anche l'aspetto alimentazione, anche nell'alimentazione l'uso di pesticidi, l'uso di sostanze chimiche provoca senz'altro dei problemi. Dobbiamo rivedere complessivamente il modello che abbiamo adottato. Quindi per esempio, come al solito si dice, un traffico che deve essere più leggero, ci deve essere l'implementazione di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, di biciclette, poi continua a esserci anche forte dipendenza dai combustibili fossili, anche la presenza di centrali elettriche a carbone, anche in Italia, no professore? Questo è senz'altro uno degli elementi, fra l'altro oltre che problemi diretti sulla salute c'è un problema più indiretto sull'ambiente, perché i cambiamenti climatici, l'abbiamo visto anche dagli eventi di pochi giorni, di 2 o 3 giorni fa, l'inondazione nelle Marche, ma tutti gli anni ormai ne abbiamo per valori che sfiorano i 2 miliardi di euro, ci preoccupiamo spesso di risparmiare, ma poi invece spendiamo moltissimo. Si parla addirittura dell'1% del PIL mondiale rispetto a questi problemi. Professore, lei quindi è una domanda diciamo che è un po' retorica, ma visto che lei è un luminare della materia, professor Maracchi, bisogna essere ottimisti, pessimisti, bisogna essere semplicemente più reattivi? Che cosa ma bisogna? Io vedo essere realisti più che altro. Cioè, c'è un dato di fatto, questi fenomeni si misurano, sappiamo che sono causati appunto da tutta una serie di tecnologie che abbiamo usato negli ultimi anni, che possono essere migliorate, oggi le conoscenze sono tante, dobbiamo pensare a un modello nuovo. È un momento non favorevole perché la crisi economica è un po' mondiale, quindi questo rende più difficile anche modificare il modello economico, c'è un alto tasso di disoccupazione, quindi diciamo, anche cambiare l'assetto produttivo non è semplice, però bisogna andare in quella direzione, cioè la riflessione va fatta in quella direzione. E ogni tanto ce lo si dice e si spera che prima o poi si prenda l'avviata. Professor Giuseppe Giampiero Maracchi, la ringrazio. Grazie, prego, buona serata. Grazie a voi, buonanotte. E adesso invece vorrei chiudere con una notizia che mi ha rallegrata, magari a molti non importerà niente, ad altri invece, uomini e donne, voglio sperare che faccia almeno così sorridere nel senso positivo. È successo in Francia, si parla della prima allenatrice di una squadra maschile di Serie B, la Ligue 2 si dice in Francia, si chiama Elena Costa, classe 78, 36 anni, portoghese, la prima donna che allenerà in Europa una squadra maschile della seconda divisione. Visione è il Clermont, il club della Serie B francese. Vorrei parlarne con Giancarlo Padovan. Grazie di essere qui, Giancarlo. Grazie a te, grazie a voi tutti, buonasera. Ex direttore di Tutto Sport, è stato firma prestigiosa del Corriere della Sera, adesso è responsabile sport per Agon Channel in Albania, ex presidente della divisione. Ex presidente della. Io vi parlo dall'Albania. Dall'Albania, infatti sento questo ritorno. Ex presidente della divisione calcio femminile e allenatore del Torino femminile. Insomma, diciamo che Giancarlo Padovan ha dedicato buona parte della sua vita al calcio femminile, questo mi fa estremamente piacere. Giancarlo, cosa ne pensi di questa novità che per esempio i calciatori del Clermont mi pare abbiano accolto piuttosto bene, dicono le cose cambiano perché dovremmo sorprenderci? No, non c'è nulla di cui sorprendersi, tra l'altro in Italia l'avvento di una donna in un club professionale. Carolina Morace, Carolina Morace, più di 15 anni fa, alla Viterbese, sì. Era Serie C, ma insomma era sempre calcio professionistico, quindi diciamo che questa arriva seconda, certo arriva in un club di categoria superiore, la Ligue Française, però è un segno dei tempi che io spero venga percepito anche in Italia. In Italia però, te lo dico con chiarezza e anche con crudezza, siamo molto indietro, dal punto di vista proprio mentale, culturale. Pensare una donna a capo allenatrice, a fare il capo allenatore di una squadra di Serie B è ancora difficile, per non dire impossibile. Però ecco, guardare oltre il nostro naso e soprattutto oltre i nostri confini ci aiuta a capire che le cose stanno cambiando. Però da questo punto di vista permettimi di dire che l'Italia è un paese arretrato. E mi dispiace, certamente la tua è una conferma, Giancarlo Padovan, ma questa è una cosa che abbiamo intorno, che si respira costantemente, eppure la Francia non è chissà no dove, proprio qui ai nostri confini, siamo molto vicini. Ma il problema evidentemente non è di carattere geografico, ma è culturale. È culturale, e la Francia evidentemente anche dal punto di vista del calcio ha degli imprenditori che si buttano o amano la novità, l'innovazione, amano anche valutare le persone per quel che sono e non per il sesso, e le prendono in considerazione come lavoratrici. Cioè questa allenatrice allenava il CT, era il CT dell'Iran femminile, quindi non è che necessariamente avesse un'esperienza particolare o già diciamo misurata con i maschi, con una squadra maschile. È solo un'allenatrice che si ritiene essere brava, e ce ne sono anche in Italia, oltre a Carolina c'è Betty Bavagnoli, Giancarlo, altre che allenano nel campionato. Ci dobbiamo purtroppo lasciare, ma io ti ringrazio e torneremo a parlarne volentieri. Grazie a Giancarlo Padovan, grazie, buona continuazione per una volta, anche vive la France, a tra poco.